superano i confini del virtuale, superano i confini nazionali, perché Dante sempre e comunque Dante 700 nel mondo. È un piacere per me dare il buongiorno a Instabili Vaganti. In questo caso mi sembra per adesso ci sono entrambi, sia Nicola che Anna Dora. Buongiorno Instabili Vaganti. Buongiorno. Buongiorno William, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vi sento bene, belli mattinieri nonostante questa lontananza telefonica, ma l'abbraccio è assolutamente vicino. Come state innanzitutto? Da un po' che non ci sentiamo. Ma sì, dai, molto bene, sempre molto indaffarati. Nonostante tutto, sembra sì, che tutto. L'entusiasmo non manca, ecco, questo è fondamentale. Certamente commemorazioni e per il 700° dalla morte di Dante Alighieri, le celebrazioni già da ieri le abbiamo portate in mostra, oggi le portiamo in scena, seppur in maniera particolare. Ho detto, si va oltre i confini del virtuale e oltre i confini, diciamo così, territoriali. È già iniziato con, mi pare, 3 appuntamenti. Come nasce, quali percorsi, con chi si va in dialogo? Chi comincia, Nicola o Anna? Comincio io. Vai. Sì, hai detto benissimo, siamo al terzo appuntamento, terzo episodio di questa web video series che abbiamo intitolato Video Dante, proprio per celebrare il sommo poeta in occasione del 700°. E stiamo iniziando una nuova web video series, ovvero Video Dante, la stiamo proprio diffondendo nel mondo, perché attraverso questa serie collaboriamo a distanza con degli artisti di altri paesi, proprio ci facciamo ispirare insieme dal sommo poeta e creiamo dei video collaborando a distanza, in remoto, scambiandoci materiali, e poi Anna Dora crea questa regia con i materiali nostri, di Instabili Vaganti e degli artisti coinvolti. Il terzo appuntamento appunto è quello di Video Dante India, stiamo collaborando con la danzatrice Anuradha Venkataraman, che è una danzatrice di Bharatanatyam, ed è una serie che è promossa e sostenuta dall'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, quindi è visibile sui canali dell'istituto, sul nostro canale. E proprio ieri, in occasione del Dante D, abbiamo lanciato questa nuova sezione della serie che è Video Dante Indonesia, e lì stiamo collaborando appunto con l'Istituto Italiano di Cultura di Jakarta e stiamo lavorando con una serie di artisti, danzatori balinesi, artisti e performer del Teatro delle Ombre classico di Bali, quindi sono i danzatori Madhe Suteja, Eli Eviana e Kadek Buti Seita Wan, e anche la musicista di una musica tradizionale che è il gamelan, che si chiama Rosmeini Buang. Con noi lavora invece Riccardo Nanni, compositore e musicista, che da tempo collabora con noi, che dialoga anche lui attraverso la musica con i vari artisti. Quindi siete nella selva oscura del mondo, praticamente siete un po' come siete come sì. Dante e Beatrice che si incontrano. Sì, stiamo attraversando un po' di foreste in tutto il mondo, insomma, soprattutto in Oriente fino ad ora. Ho sentito. Poi abbiamo in previsione anche altre cose dall'altra parte del mondo, vediamo se si concretizzeranno. Questo mi porta, pensate cosa mi fate dire, qui veramente i complimenti valgono doppio, più che sinceri. In questo caso l'online, grazie alla vostra idea, ha avuto una bella utilità. Pensate cosa mi tocca di dire. In questo caso è stato fondamentale, sì, perché grazie a tutto ciò vi è un importante motivo di conoscenza, secondo me, che vi dico. È anche sentire come emoziona, come viene interpretato, come viene vissuto, come viene tradotto Dante oltre continente, altro che confini, in questo caso oltre continente. Che cosa avete scoperto in tutto ciò? Ma guarda, sinceramente quando ci siamo approcciati a questo progetto è stato veramente una scoperta continua, perché abbiamo incominciato a rileggere Dante sotto diciamo un altro aspetto, quindi con altri occhi, cercando di capire che cosa accomunava l'opera dantesca, la Divina Commedia, con tutto un immaginario e una tradizione culturale in Oriente. E abbiamo trovato di tutto, abbiamo praticamente riscoperto ogni parola. Per esempio, la danzatrice indiana sta lavorando, facendo dei continui parallelismi tra la commedia, appunto, e il Mahabharata. E quindi diciamo che è una espressione di danza e di teatro loro. Il Mahabharata è un'opera classica indiana, okay. Quindi un po' come la Divina Commedia in effetti. Diciamo che all'interno... Scusa la mia ignoranza, non lo sapevo. Cioè figurati, all'interno del Mahabharata si esprime un po' tutta la tradizione anche indiana, e quindi abbiamo visto come in realtà, andando indietro nel tempo, quindi all'epoca dantesca, all'epoca del Mahabharata, le connessioni poi fossero tantissime. Bello. Nei territori, quando magari non ce l'aspettiamo, no? Luoghi così distanti, a quell'epoca si pensa che non avessero praticamente contatti, invece no, perché poi appunto c'erano traiettorie, la via della seta, percorsi eccetera, e quindi erano in continua comunicazione le culture. Quindi uno degli aspetti che avete trovato da altre culture, altri percorsi similari con la grande opera, con la commedia di Dante. Sì, sì, in particolar modo, diciamo, nel versante chiaramente orientale, tutto quello che poi è legato un po' al anche al purgatorio. Pensa che Dante comunque aveva collocato il paradiso terrestre proprio in India, quindi casualmente ci siamo proprio ritrovati lì, certo. In quel territorio. Beh, è molto particolare, non solo per il sentire, il vivere come viene, come emoziona e come viene vissuto oltre confine, ma per vedere anche altre concrete realtà, come ad esempio mi hai fatto conoscere tu, mi informerò certamente di narrazione e scrittura che può essere assolutamente paragonabile o può andare tranquillamente in dialogo. Il giro quindi dall'India, dall'Indonesia, avete intenzione anche di estendere, hai detto, dall'altra parte del mondo? Già siete dall'altra parte del mondo. Qual è l'altra parte del mondo ancora? In Oceania? Sì, dall'altra ancora, verso l'altra direzione. Sì, c'è l'idea anche di iniziare la serie video Dante con il Cile. Ok. Con l'attore Claudio Santana Borges, e coinvolgendo anche la comunità degli Emiliano Romagnoli nel mondo, sì. in questo progetto. Insomma, diciamo che stiamo sfogliando l'opera dantesca, ma attraverso anche la visione che gli altri paesi, che le altre culture hanno di questa opera. Raramente a volte si trovano le traduzioni, e quindi è interessante proprio davvero portare Dante in questi paesi, coinvolgere soprattutto artisti che si fanno ispirare dall'opera dantesca. Poi ci sono delle culture dove sembra innata, perché chiaramente quando abbiamo ricevuto i materiali video dei danzatori balinesi con queste maschere, con queste ombre, loro sono già entrati davvero nella selva oscura, hanno ricreato questa selva con le ombre, le fiere di Dante. Per loro poi sono i demoni che Dante incontra nel suo percorso. Ci sono molti parallelismi anche con tutta quella che è lì la cultura animistica, con la reincarnazione. E quindi a noi piace farci ispirare anche da loro, dire l'abbiamo interpretata così, vorremmo lavorare su questo, sotto la direzione di Annadora iniziamo questo nuovo percorso. Sì, una grande idea. Infatti, se possiamo mettere lo stacco musicale The Breaker Brother con Big Idea, che così dà un po' di musica anche alla nostra chiacchierata con gli instabili vaganti Annadora Adorno e Nicola Pianzola, i due aspetti di sentire come viene vissuto e allo stesso tempo prendere anche realtà in parallelismo. Ecco, questo è lo scambio, Questo è veramente nel progetto di Video Dante, che va oltre i confini non solo del virtuale ma anche i confini territoriali nella selva oscura del mondo. Probabilmente i due motivi di dialogo che ho appena descritto sono l'anima sottesa e protagonista del vostro lavoro. Posso permettermi di dire questo? Ma certo, guarda, ci fa tantissimo piacere, William. Stacco musicale con The Breaker Brother e a tra poco con gli Stabili Vaganti. Posso intrattenervi ancora per qualche minuto? Certo. Grazie. Nel mondo, ricordo che il programma del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con gli Stabili Vaganti, che celebra i 700 anni dalla morte del sommo poeta, e insieme quindi riusciremo a rivedere le stelle? Siete ancora per continuare così con delle citazioni che sono un po' immediate ma restano sempre comunque. E allora la nostra conversazione con Anna Dora e Nicola degli Instabili Vaganti prosegue in diretta sui 103.1 nella rubrica In Scena del Breakfast Club. Per riuscire a fruire di tutto ciò, come ci si connette, devo usare questa parola, per avere il Video Dante? Allora, abbiamo pensato appositamente queste opere per il web, per cui sono tutti gli episodi sono fruibili sui canali social degli istituti italiani di cultura coinvolti, quindi rispettivamente l'Istituto di New Delhi e di Jakarta, e sui nostri canali social, quindi sono la pagina YouTube, Facebook e Instagram, e sul nostro sito abbiamo creato una sezione nelle nostre opere, film e video, dove sono contenute tutte queste web video serie che stiamo producendo quest'anno. È una sezione proprio nata quest'anno. Sì, ok. E per quanto riguarda queste parole, che vedo il Wounded Soul, proseguono il percorso di ricerca iniziato circa un mese fa, traducendo in questo terzo episodio le suggestioni provenienti dal tredicesimo canto dell'Inferno. Siamo nella selva dei suicidi e questo sarà il prossimo episodio? Questo è il prossimo episodio, cioè quello che è uscito adesso il 24, okay. Quindi è proprio prima del Dante Dì, ed è appunto un episodio molto importante per noi, perché oltre chiaramente a far dialogare le due culture del passato, in un certo qual modo cerchiamo anche di gettare un ponte sul presente. Abbiamo voluto dedicare questo episodio a tutte le persone che, a causa appunto della pandemia in India, hanno dovuto compiere un cammino lunghissimo dalle città per tornare nei propri luoghi di origine. E quindi anche il testo che viene utilizzato dall'artista indiana parla proprio di questo, cammino, il cammino di una giovane donna che deve ritornare a casa sua, e quindi non potendo prendere mezzi, non potendo più lavorare, si ritrova a dover fare tantissimi chilometri come tante altre persone. È stato praticamente un esodo di massa per ritornare a casa. Certo, e quanto mai il paragone nella selva oscura in questo caso e tanti altri parallelismi sono immediati. Siamo ancora con questo progetto che vede altre realtà di approfondimento, il momento lo conosciamo per quanto riguarda il teatro. State già lavorando anche in proiezione futura, in attesa della ripresa ufficiale, che speriamo sia al più presto, ovviamente. Avete già in mente anche qualcos'altro che bolle in pentola? Scusate questa divagazione che faccio sempre. Sì, siamo impegnati anche in altre web video series. Ok. Una che si chiama Siete, sulle sette arti, con l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid. E l'abbiamo citato prima, la nuova via della seta, quindi The New Silk Road, che stiamo realizzando con degli artisti cinesi e con l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Alcuni episodi sono già visibili, entrambe le serie. E poi chiaramente stiamo andando a ritornare in presenza, per cui lunedì entreremo in residenza alla Città del Teatro o a Cascina per lavorare a questo progetto Beyond Borders, che è il progetto all'interno del quale sono nate anche tutte queste serie, cioè un progetto basato sulla collaborazione a distanza con artisti da tutto il mondo, e stiamo lavorando a una messa in scena, a uno spettacolo che racconta proprio come nasce questo progetto, ospita in video testimonianze, interventi da artisti da tutto il mondo e racconta proprio dal nostro lockdown come è cambiata anche la vita di una compagnia teatrale, come siamo rimasti in contatto però con tutto il mondo, sperando presto di ritornare anche ad agire in presenza proprio con Video Dante, perché abbiamo previsto una parte dal vivo in India a novembre, in una regione molto particolare, il Nagaland, una regione ancora tribale, quindi con delle forti tradizioni. Cercheremo di portare Dante anche lì. Si procede quindi. Link a Wounded Soul, il terzo episodio di Video Dante, l'hashtag India, e per vedere tutti gli episodi di Video Dante finora realizzate visitate il sito di Instabili Vaganti. Ci sentiamo presto, quindi buon proseguimento in questo, viaggio, in questo piacere. Ciao a tutti. Ciao Nicola, ciao Anna Dora, a presto. Ciao, grazie ciao, ancora. Ciao. Ciao.